Restiamo solo noi da questa spiaggia affollata, ti porto via. Guarda gli amici tuoi, c'è chi ti mangia con gli occhi, ma tu sei mia. Un pattino sul mare, accoccolati nel sole, presto ti vieni a sdraiare, con la testa a due passi dal cuore, un'estate con te. Estate con te, con te. Restiamo ancora noi, sembra una spiaggia deserta di Normandia. Restiamo se lo vuoi, è mezzanotte d'estate che vuoi. Ancora di sale, un'estate con te, con te, un'estate con te, con te. Restiamo solo noi, pazze vacanze da. Sabe?